Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Diciannove e diciassette minuti, 08 secondi in questo istante. Buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Benedetta Acri, Laura Fagin sono in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi: la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms per domande o commenti al 349-238-6666. Poi siamo su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, infine su Twitter Nessun Luogo 24. Se avete dato un'occhiata a Twitter oppure a Facebook, lo sapete di cosa parleremo questa sera. Vi porterò in Algeria, quel paese solo sfiorato dalla primavera araba, quel paese che ha saputo reggere finora quell'urto destabilizzante di quel grandissimo movimento, un paese importantissimo e cruciale per l'intera area per molti motivi: la sua vicinanza all'Europa, il gas e il petrolio, ricordo gli interessi anche italiani insomma in quel paese, la presenza di Eni, e la sua storia drammatica con quella tragica guerra civile che ha fatto centinaia di migliaia di morti. E poi c'è il presente con una minaccia terroristica, ricordate i fatti di In Amenas, perché Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che è poi quello che è finito in Mali, nasce qui negli anni 90 come gruppo salafita per la predicazione e il combattimento e ancora prima come il gruppo islamico armato. Prima però di andare nelle strade di Algeri, un piccolo aggiornamento sulle elezioni in Pakistan di quest'oggi. Sì, perché nell'importante paese asiatico quest'oggi si sono chiuse le urne circa due ore fa, 86 milioni di elettori si sono recati alle urne appunto per scegliere i 342 deputati del Parlamento e delle quattro assemblee provinciali. Una giornata questa, come in verità anche le precedenti, segnate da parecchi attacchi e attentati dei talebani che lo avevano detto, avremmo segnato queste elezioni, l'obiettivo era di dissuadere i cittadini pakistani dall'andare al voto. Il bilancio di quest'oggi è di 17 morti in almeno tre attentati diversi. Prima di tornare in Algeria mi preme sottolineare quella che è l'importanza di questa tornata elettorale, un paese fondamentale in quell'area, alleato degli Stati Uniti ma con molte zone d'ombra, perché lo ricorderete, mentre gli Stati Uniti erano a caccia di Bin Laden in Afghanistan, lui si trovava il numero uno, il ricercato numero uno era proprio lì in Pakistan. Come ha scritto l'Economist recentemente, le elezioni di quest'oggi, di sabato, sono solo il primo capitolo di un processo di trasformazione che aspetta il Pakistan, perché a settembre poi bisognerà eleggere il nuovo capo dello Stato. E dunque, dopo questa brevissima parentesi dedicata al Pakistan, come promesso parliamo di Algeria. Per parlare di Algeria ci aiuterà Caterina Roggero, che è dottore di ricerca in relazioni internazionali alla Statale di Milano, è esperta di storia e attualità nordafricana e ha recentemente scritto un volume dal titolo L'Algeria e il Maghreb, la guerra di liberazione e l'unità regionale. Roggero, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Allora, innanzitutto le chiederei una prima risposta sintetica, a flash. Che momento storico sta vivendo l'Algeria? Siamo davvero a un crocevia, a una possibile cesura storica, come ho letto da qualche parte? Sì, sì, sì, possiamo dire che forse in Algeria cambierà qualcosa, ma l'anno prossimo. Se Bouteflika, se le sue condizioni di salute, il presidente attuale dell'Algeria, se le sue condizioni di salute non peggioreranno vistosamente e gravemente in questi giorni, comunque nel 2014 sono previste le elezioni presidenziali, che forse questa volta potrebbero essere aperte e veramente di cambiamento per l'Algeria, o almeno si spera. Allora, sintetizzo in qualche modo: Algeria, partita aperta e forse prima primavera, scusate il gioco di parole, all'orizzonte. Prima di andare avanti nell'analisi e nella discussione, i numeri e la storia del paese. Per il suo affaccio sul Mediterraneo, l'Algeria è considerata la porta dell'Africa. Colonia francese fino al 1962, l'anno successivo diviene una repubblica. Dopo l'indipendenza, i leader della rivoluzione si sono avvicendati al potere senza mai riformare il paese, che è rimasto povero ed arretrato. Alla fine degli anni Ottanta, il largo malcontento popolare, acuito dalla gravissima crisi economica e dalla richiesta di maggiore libertà, viene sfruttato dal Fronte Islamico di Salvezza, FIS, movimento politico-militare con l'obiettivo di creare una repubblica islamica. Nel 1991 il FIS stravince le prime elezioni libere. L'anno successivo l'esercito attua un golpe per bloccare il secondo turno elettorale. Segue una repressione durissima e indiscriminata contro gli islamisti e viene imposto lo stato d'emergenza. È l'inizio di una guerra civile che durerà 10 anni e costerà centinaia di migliaia di morti. I sostenitori del Fronte Islamico di Salvezza si scagliano contro il regime, ma anche contro intellettuali, giornalisti e civili. Le organizzazioni armate che aderiscono al FIS si dividono e si contendono il monopolio della resistenza, gettando il paese nel terrore. Nel 1999 l'elezione di Abdelaziz Bouteflika ha dato il via ad un processo di riconciliazione nazionale che non si è ancora concluso. La sua presidenza ha però prodotto un quindicennio di calma relativa, interrotta periodicamente da esplosioni di collera per la povertà e la disoccupazione, che il governo cerca di tamponare aumentando i salari e calmierando i prezzi sfruttando i proventi della vendita di gas e petrolio. Da circa un anno le precarie condizioni di salute di Bouteflika hanno aperto i giochi per la sua successione, con il rischio che la fine della sua reggenza possa far ripiombare l'Algeria nella violenza. Oggi gli estremisti islamici che vinsero le elezioni nel 1991 hanno un nuovo nome, Al-Qaeda nel Maghreb, e insieme ad altri gruppi terroristici dell'area compiono in media circa un attacco a settimana contro obiettivi governativi. L'ultimo e più grave è stato quello di In Amenas, avvenuto lo scorso gennaio, quando un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda hanno assaltato l'impianto della BP nel sud-est dell'Algeria, sequestrando una quarantina di occidentali e 150 lavoratori algerini. Nel blitz con il quale l'esercito algerino ha messo fine al sequestro, sono morti 23 ostaggi e 32 terroristi. Questa è un po' la storia in massima sintesi dell'importante paese nordafricano. La storia è molto importante, Caterina Roggero lo sa bene perché nel suo volume appunto ha affrontato, è andato un po' all'indietro nel tempo per cercare di capire meglio, come si dice sempre, storia maestra di vita, capire meglio l'Algeria del presente. Chi l'ha fatto è anche, Roggero stia con noi, un regista algerino, Rachid Menaji, che ormai da anni vive in Italia, ha appena sfornato il suo ultimo lungometraggio che si chiama Parfum d'Alger, profumi di Algeri, e lui fa un lavoro di rivisitazione per comprendere proprio il dramma di questa guerra civile. Allarga lo sguardo ad altri paesi del Nord Africa. A lui ho chiesto lo scopo di un film che torna agli anni 90. Giustamente io volevo parlare di quello che ha vissuto l'Algeria, nel senso questi anni neri, come le chiamano, nel senso dal 90 con l'arrivo del Partito Islamico e tutto quello che è successo dopo questi massacri, 300.000 morti. Io volevo un po' capire che cosa è successo e sono un po' questa fotografa che ha lasciato un po' l'Algeria e ritorna e cerca di capire perché il fratello Murad, che amava le Beatles, che era molto attento alla cultura occidentale, è caduto questa trappola dell'integralismo musulmano. E dunque faccio una rivisitazione con la mia protagonista di alcuni punti perché l'Algeria a un certo momento è arrivata a questo dramma. E poi nella stessa domanda vedere quello che succede e altri paesi arabi musulmani come la India, come l'Egitto, eccetera, è la stessa storia che si ripete. La Tunisia sta vivendo, a mio parere, anche l'Egitto, stanno vivendo questo passaggio dove gli integralisti sono presenti nella società e un mondo anche violento, eccetera. Dunque per questo era anche per me importante capire quello che è successo in Algeria, ma a che cosa serve anche questa memoria, nel senso vedo che quello che ha vissuto l'Algeria non ha servito molto anche agli altri paesi, perché stanno andando dritto contro un muro come l'ha vissuto l'Algeria. Lei ha parlato di trappola dell'integralismo, come si costituisce questa trappola? Come fa un paese intero a finire, no, a sbattere contro questo che lei chiama muro? Quali sono i presupposti perché poi si finisca in questa trappola? Prima viene dal modo come il governo governa il paese, nel senso il fatto che l'Algeria dopo l'indipendenza, nel senso c'è stato solo il partito Salvini, e dunque con un partito unico non è che si può parlare di democrazia, eccetera. Poi c'è stato l'avvento che hanno aperto altri partiti, eccetera, ma il dominio di questo partito unico che era il governo ha cancellato tutte le forme d'opposizione, e dunque l'unico partito a un certo momento che faceva un lavoro anche sociale, come in Egitto l'abbiamo visto con il partito dei Fratelli Musulmani, che fanno anche un lavoro sociale, e dunque a un certo momento il governo ha manipolato anche questi Fratelli Musulmani contro intellettuali, gente laica, con una società più aperta. E poi a un certo momento questi hanno visto che hanno un consenso anche popolare, nel senso come in Egitto, come in Algeria, a un certo momento la gente ha votato, anche pensando che se questi arrivano al governo la vita sarà più facile, meno difficile da gestire. In fondo è questo che chiamo la trappola. Poi una volta che prendono in mano le reni del potere, si comportano con una forma di dittatura, eliminando anche loro qualsiasi forma di opposizione. Quindi Benadi, se capisco bene, lei dice la grande trappola è prima l'autoritarismo, cioè regimi troppo forti che poi non lasciano spazio alla società civile di liberare le proprie energie, che vengono incanalati nell'integralismo islamico. Comunque anche il potere stesso hanno manipolato questi integralisti in modo a rimanere al potere, anche se vediamo la vicenda di Bin Laden, eccetera, che comunque è stato anche lui utilizzato contro i russi in Afghanistan, poi giustamente questo a un certo momento si è ribellato contro quelli che l'hanno anche utilizzato. Dunque è un po' lo schema che si ripete dappertutto con questi governi totalitaristi. Quando ha visto l'episodio di In Amenas, che cosa ha pensato? Quello è prima è la conseguenza della parte come la Libia, il Mali, tutta questa parte dove si fa capire che il movimento dei fratelli sono ancora molto importante in tutta questa zona. E c'è questo internazionalismo dei Fratelli Musulmani, sono anche in Siria, sono un po' dappertutto, e giustamente hanno voluto dare un colpo all'Algeria, che si è implicata con la Francia per la storia del Mali, sì. Dunque hanno fatto una cosa più mediatica, no? Attirare l'attenzione e toccare la parte più importante, il giacimento del petrolio. Dunque sono le cose che attirano lo sguardo anche dell'Occidente. Shmush moddo tu kafrat ma tallah alaykum. E queste sono le voci, i suoni e le musiche di Parfum d'Alger, di Rachid Benaghi. Con Caterina Roggero cercheremo di capire dove sta andando l'Algeria subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. Che futuro aspetta l'Algeria? L'alone di mistero che circonda le sorti e le condizioni di salute del presidente Bouteflika ormai da settimane mettono in forse un suo quarto mandato, su questo non c'è dubbio. Ne parliamo questa sera con Caterina Roggero, esperta di questioni magrebine. Roggero, di nuovo benvenuta. Due ascoltatori che twittano. Il primo tweet dice: la primavera araba si è trasformata in un inverno cupo e fosco, cosa che era prevedibile e intellegibile. Non so quanto prevedibile fosse, devo confessare, io ne ho vissuto un piccolo scampolo tra Libia ed Egitto, devo dire che all'inizio, francamente, stando lì, era difficilmente immaginabile. E poi invece un'altra ascoltatrice che fa questa domanda, mi sembra molto interessante, che gira immediatamente a Roggero: la violenza dell'integralismo in Algeria si può considerare una reazione alla modernizzazione e non una specificità islamica? Caterina Roggero. Dunque, la violenza islamista degli anni 90, diciamo, perché oggi, come dicevate nella scheda, se non sbaglio, sicuramente gli attacchi terroristici ci sono, ma sono molto ridotti rispetto agli anni 90. Diciamo che sì, un po' come diceva anche l'amico regista algerino, il fondamentalismo è nato un po' sia come conseguenza della mancanza di libertà dei regimi autoritari, sia proprio come un rifiuto del sistema di sviluppo occidentale modernizzante, nel senso che all'indomani dell'indipendenza l'Algeria ha scelto il modello socialista di sviluppo, che non ha portato però quella crescita, quell'uscita, lotta contro il sottosviluppo che si pronosticava e che coloro i quali avevano condotto la guerra di liberazione promettevano che avrebbero vinto, insomma, anche la guerra contro il sottosviluppo. Sì. Quindi l'ideologia occidentale, così definita ideologica anche questa, dello sviluppo socialista non ha avuto i suoi effetti, la modernizzazione di tipo occidentale non ha avuto nessun beneficio per l'Algeria, l'Islam è sembrata la sola soluzione alla fine degli anni 70, inizio anni 80, e così è cresciuto nei consensi. Chiarissimo. Allora entriamo nelle pieghe della società algerina, nella vita quotidiana. Andiamo ad Algeri grazie alla voce e all'obiettivo di Abderrahman Krimat, che è un filmmaker, a cui ho chiesto innanzitutto una fotografia della società di Algeri. C'est un problème. Comme toutes les sociétés, il y a des problèmes à résoudre. È un problema. Come in tutte le società, ci sono dei problemi da risolvere. Per esempio, la questione che si pone attualmente è che qualcuno inizi un lavoro che sia pacifico e che abbia un obiettivo a lungo termine, rivolto a migliorare la situazione della società algerina nel lungo periodo. Qual è il grande problema sociale attualmente in Algeria? La disoccupazione, le ferite della guerra civile? In verità c'è un po' di tutto. C'è la disoccupazione, come ha detto lei. C'è della corruzione, come voi sapete, e forse il problema più evidente, un problema di cultura, di educazione. C'è anche questo trauma degli anni 90 risalente a 10 anni fa che ancora non è guarito. Qual è la vita di un giovane algerino oggi? Ha la speranza di vedere un paese che migliora o lei pensa che i giovani algerini abbiano un po' perso questa speranza per il futuro? Ci sono delle situazioni particolari. Per alcuni miei connazionali la società algerina non riesce a soddisfare i loro bisogni o loro non riescono a trovare un punto d'incontro con la società algerina. Dunque preferiscono intraprendere il difficile viaggio da clandestini verso l'Europa, sperando di soddisfare le proprie aspettative e di trovare le risposte che cercavano. Quindi alcuni tentano la possibilità di andare in Europa, di fuggire, ma c'è anche chi decide di suicidarsi. Altri giovani preferiscono restare e c'è un'altra categoria minoritaria che è andata in Europa per studiare e che preferisce poi tornare in Algeria, ma ne ha avuto la possibilità, quindi dipende davvero dalla tipologia delle persone. La possibilità, ça dépend des cas de personnes. In generale possiamo dire che la società algerina ha i mezzi per migliorare, per risolvere i problemi che lei ha indicato all'inizio della nostra intervista? Certo, ci sono le capacità umane ma anche le capacità finanziarie. Dunque si potrebbero facilmente risolvere i problemi. Ma per esempio si parla sempre di primavera araba, ma bisogna sottolineare che noi abbiamo questa specificità. Qui da noi il male non è individuato fisicamente. È un male che si propaga in tutte le categorie sociali e su tutta la società. Quindi, come vi ho detto all'inizio, bisogna lavorare a lungo termine. Ma che ci sia un miglioramento lo credo molto probabile. Abbiamo i mezzi per migliorare. Ha qualche rimpianto per il fatto che non vi sia stata una primavera araba in Algeria? Pensa sia stato un problema non averla vissuta? Come je viens de vous le dire, la specificità algerina c'est pas comme la Tunisie, l'Egitto. Come stavo dicendo, la specificità algerina non è uguale a quella della Tunisia, dell'Egitto o della Libia, dove il male in qualche modo viene individuato nella personalità di un presidente dittatore. Ma l'Algeria non è così. Quindi non possiamo chiedere solamente la sostituzione di un presidente o dire che sia principalmente lui il problema. Lei ha detto che è molto difficile identificare quel male specifico. Non è così difficile da identificare. Perché le ho parlato di alcuni mali, per esempio le ho parlato di corruzione, le ho parlato di educazione, le posso parlare anche di clientelismo e si può dire che si sono propagati praticamente in tutta la società. Per esempio, se lei consulta un medico, deve avere conoscenze nell'ospedale per accedervi, per prendere un appuntamento. Vedrà come funziona la cosa, che non c'è una persona precisa che può essere identificata come il male dell'Algeria. Ci sono altri casi quotidiani che alimentano questo male. Lei ha citato la sanità, che è un ambito molto importante. O potremmo parlare dell'educazione, per esempio? L'educazione è allo stesso modo. L'educazione è un problema. Abbiamo un ministro dell'educazione superiore che è al suo posto dal 1992. E questa è una cosa incredibile. Ma l'Algeria ha bisogno di un cambiamento? Certo che ha bisogno di un cambiamento. Le parlo di una società che si basa su un sottosistema di organizzazione, di cittadini, di governo. Quindi, in un certo senso, attualmente c'è un equilibrio assicurato. Dunque, se alcuni elementi cambiano, praticamente cambia tutto l'insieme della società. Ma per me, certamente, c'è bisogno di un cambiamento. Le ultime due domande sono: la prima a proposito della minaccia del terrorismo. Passeggiando tra le vie di Algeri o anche di altre città, si ha la sensazione di un pericolo imminente o è qualcosa che noi da fuori vediamo come una minaccia? Come vede la situazione? Sotto controllo oppure no? Per noi, dopo quello che abbiamo vissuto negli oscuri anni 90, la situazione è molto migliorata, sia per le questioni di sicurezza e in generale per l'atmosfera che si respira in tutta l'Algeria. E prima, fino al 2000, mancava veramente la sicurezza. Poi, a partire da quell'anno, la situazione è migliorata sempre di più sul piano della sicurezza per noi algerini. Io non so come gli stranieri si sentano, ma al nord le cose funzionano, perché vedo viaggiare amici stranieri in tutto il nord, mentre al sud la situazione è molto delicata. Ribadisco, le questioni riguardanti la sicurezza sono molto migliorate. E questo è stato il risultato del grande lavoro del presidente Bouteflika, questo possiamo dirlo? Sì, praticamente è riuscito a risolvere questo problema. Le specificità del caso algerino, non toccato dalla primavera araba, però il nostro ospite, questo filmmaker Abderrahman Krimat, parlava di questo male sfuggente, di questa corruzione imperante, che non è identificabile, lui diceva, in un tiranno, un dittatore come poteva essere Mubarak in Egitto o Ben Ali. Caterina Roggero, però quali sono le differenze? Perché anche Bouteflika, insomma, è un leader, è facilmente identificabile, e allo stesso modo anche in Egitto Mubarak con sé aveva un regime, un apparato incredibilmente forte e potente. Quali sono le differenze dunque? Sì, diciamo che la differenza più evidente è quella che Bouteflika è un sicuramente leader al potere da 15 anni, quindi che è riuscito a farsi eleggere per la terza volta in un modo oscuro, diremmo noi, nel senso cambiando la legge per la rielezione, quindi ha qualcosa del sistema autoritario sicuramente. Però c'è anche da dire che è stato, come diceva Abderrahman, il presidente che è riuscito a tirar fuori il paese dagli anni bui del terrore, che sono stati veramente e sono ancora una ferita aperta e sanguinante per il popolo algerino, che non ha visto ancora un vero processo di riconciliazione nazionale, come poi magari potremo parlarne ancora un po'. Quindi Bouteflika è riuscito in questa missione che sembrava impossibile, sì, in un modo controverso, ma gli è riuscito. Quindi in un certo senso gli algerini, nella loro maggioranza, che diciamo si trovano in una situazione un po' di apatia nei confronti di qualsiasi partecipazione politica, per questo anche un po' che la primavera araba non ha avuto una grande partecipazione popolare, si sono trovati comunque a voler diciamo privilegiare la tranquillità, la sicurezza data da un presidente che ha sconfitto il terrorismo piuttosto che cadere nelle trame dell'ignoto, diciamo. Dei trame di terrorismo e di quello che aspetta l'Algeria ne parleremo tra pochissimo. Adesso il traffico e poi abbiamo una chicca, perché siamo riusciti a raggiungere Yasmina Kadra, notissimo scrittore algerino. Nessun luogo è lontano. E vi dicevo, un osservatore particolare, perché Yasmina Kadra, autore fra i vari libri dell'Attentatrice, il suo prossimo libro è rivolto al passato, ancora ancora più indietro rispetto alla guerra civile, anni 20 e 30. Lui è un osservatore privilegiato perché per anni ha servito nelle forze di sicurezza algerine e ha combattuto proprio quei terroristi che poi è andato a descrivere mettendo giù il Kalashnikov e impugnando la penna. Allora vi propongo questa chiacchierata con Kadra. La prima domanda che gli ho posto è: perché bisogna andare così tanto indietro nella storia algerina per capire il presente? È normale che la storia di un paese si prolunghi nell'attualità. Quindi è sempre utile vedere come, a partire da quali avvenimenti, da quale situazione, da quale condizione, un paese è partito verso il suo destino. E io sono tornato su quell'Algeria perché la trovo molto più romantica rispetto a quella odierna. Quali sono gli aspetti che ha affrontato nel suo libro? Ci può fare qualche esempio? È la storia di un'educazione sentimentale. La storia di un giovane algerino partito dal ghetto, nel quale è circondato da tutti i paesani e che viene colpito dall'amore, dalla freccia di Cupido, e che poi conosce la sua anima gemella. Poi decide di partire per la città di Orano, dove scopre la modernità. È la sua storia. La storia di questo giovane che è alla scoperta della modernità, si può immaginare un giovane algerino che oggi va a scoprire che cosa nell'Algeria odierna? Qual è il bisogno dei giovani algerini? Che cosa devono scoprire? Il sogno. Quello che manca in Algeria sono i sogni per i giovani. Tutte le prospettive sono state distrutte da una gestione catastrofica e sono mancati negli anni i ripari per i giovani, per il governo e per i governati. E i giovani di oggi non sanno dove sbattere la testa. La scuola non fornisce più una buona preparazione per l'università. L'università non fornisce più buoni dirigenti per la nazione. Siamo un po' in un circolo vizioso. Il governo è fantomatico, le prospettive vacillano. Tutto ciò rende l'Algeria fragile e soprattutto l'obbliga a reinventarsi all'estero al posto di rafforzarsi al suo interno. Lei ha parlato di governanti. Ha un'idea di cosa stia succedendo al presidente Bouteflika? C'è un grosso mistero sulle sue condizioni di salute e alcuni analisti hanno iniziato già a immaginare il futuro del paese. Qual è la sua opinione? Beh, è l'opinione di tutti gli algerini. È l'aspettativa. Non sappiamo esattamente che cosa accadrà. Perché semplicemente il regime non ha mai incoraggiato l'emergere di personaggi in grado di reggere il testimone, oppure di essere vicini al popolo per provare ad accedere alle votazioni ed aspirare anche alla carica presidenziale. È un regime che in 50 anni non ha fatto che praticare la tattica della terra bruciata. Ha marginalizzato intellettuali, ha deturpato la coscienza di questo paese, ha ridicolizzato l'opposizione ed è per questo che oggi siamo di fronte a un vuoto. Ho letto in un'intervista che lei ha detto che il terrorismo in Algeria è stato sconfitto. Dopo gli ultimi avvenimenti, a partire da In Amenas, anche prima se vuole, dopo la guerra di Libia con gli arsenali militari, ogni anno arrivano proprio in Algeria dal mare o anche dal sud della Tunisia parecchie armi. Lei per caso su questo tema ha cambiato idea? Vede un pericolo che è sempre in agguato o è fiducioso per il futuro? Il terrorismo Io parlo di quel terrorismo che riesce a radicarsi nella popolazione. Quel terrorismo che l'Algeria ha conosciuto durante gli anni neri non esiste più. Ma il terrorismo che si è manifestato in Mali, in Niger o Libia e un po' dappertutto in questa parte del mondo rappresenta un rischio maggiore per tutta l'umanità, non solo per l'Algeria. La Francia, l'Inghilterra, tutti sono minacciati da questa pandemia ideologica. A proposito di ideologia, lei pensa che l'Algeria, in particolare, ma anche altri paesi come Tunisia o Libia, in questi paesi la società civile abbia gli anticorpi per combattere questa pandemia? Perché ho letto recenti reportage a proposito della Tunisia, dove per esempio hanno bloccato 1000 potenziali jihadisti che volevano partire per la Siria. Dunque si ha l'impressione che la retorica jihadista cominci a essere sempre più potente e che qualche giovane, magari un po' fragile, possa cadervi. Sì, perché l'espandersi dell'infezione non accetta più questo vuoto. Tutti si sentono abbandonati dal paese, dall'elite governativa, ed è normale che oggi invece di fare dei sogni sia optato per un incubo generalizzato. Il nostro paese non ha una reale immunità contro questo male, perché semplicemente ci sono delle società dislocate, disorientate e anche corrotte. Queste le parole di Yasmina Kadra. Caterina Roggero, è molto difficile fare delle previsioni su quello che potrà accadere nel 2014. Lei che idea si è fatta? Dunque, a partire un attimo, c'è una prendita appunto su Bouteflika, sul suo ricovero a Parigi, che appunto ha messo poi in crisi tutto il sistema della successione. Perché? Perché innanzitutto nel 2005 era stato già ricoverato sempre lì a Parigi nell'ospedale militare. Per un'ulcera. Allora nel 2005 si pronuncia allo stomaco allora però non si seppe niente per un mese, proprio non si sapeva neanche che era ricoverato. Questa volta c'è stata un po' più di informazione, anche se il primo comunicato solo dopo 11 giorni. Diciamo c'è grande preoccupazione perché sembrava che Bouteflika dovesse ricandidarsi per la quarta volta nel 2014. Se non ci sarà lui, o comunque se a questo punto, vista le condizioni di salute, che già nel 2005 lui era stato male, sembrava, anzi poi pare che Wikileaks abbia detto che avesse in realtà un cancro, e gli anni successivi, dopo la rielezione del 2009, che appunto già allora sembrava strano si ricandidasse essendo malato, diciamo si diceva, poi non si è più visto, si è visto pochissimo in questi anni, tant'è che l'ultima apparizione è avvenuta circa, cioè esattamente un anno fa, quando lui ha detto, ha fatto questa famosa dichiarazione, il nostro tempo è passato, quello della mia generazione ha finito il loro tempo, devono passare testimone. Però da allora sono cambiate alcune cose, non si sa come, ma alcuni avevano spinto per una sua ricandidatura. Fatto sta che questa malattia nuovamente mette in forse, forse definitivamente a questo punto, la sua nuova candidatura, e quindi non si ha però allo stato attuale un candidato per le elezioni del 2014, perché il partito di governo Fronte di Liberazione Nazionale, ancora lui, non è più partito unico ma è riuscito e ha ancora dei consensi, ha appena cacciato il suo segretario generale, che sembrava Belkhadem, sembrava il delfino di Bouteflika e il suo successore, l'hanno cacciato per dissidi interni, sono divisi. Anche l'altro partito di governo, il Rassemblement National Démocratique, è diviso al suo interno, e il segretario Waya, si è dimesso anche, si è dimesso, non è stato cacciato, quindi anche lì divisioni, e quindi non c'è ancora un'alternativa fondamentalmente. Esatto, insomma. Però questo può aprire finalmente un vuoto che potrà essere forse riempito da una competizione invece trasparente, cioè c'è tutta una partita aperta che può essere molto positiva per i paesi, a meno che appunto una delle possibilità, pare si ventili, è che l'esercito candidi un proprio rappresentante. Questo complicherebbe le cose, ovviamente, perché l'esercito tornerebbe alla guida del paese. Certo. Tra l'altro, Rogero, siamo quasi in chiusura, quindi telegrafica su questo punto. Quando c'è una situazione di vuoto, come lei accennava, ci sono due rischi. Uno è la militarizzazione, e giustamente lei faceva riferimento a una candidatura promossa dall'esercito, ricordo un esercito molto presente e molto forte in Algeria. L'altro è il rischio terrorismo, cioè che le varie brigate di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ex G, eccetera, eccetera, alzino la testa proprio in quei momenti di vuoto. Da questo punto di vista, cosa può dirci? Dunque, secondo me la minaccia terroristica non è poi così presente, cioè esiste ma non è così allarmante come magari ci vogliono far credere i media, nel senso che in generale possiamo dire che la popolazione non è, è portata più verso la tranquillità, non verso, diciamo, la lotta dura contro lo Stato, quindi c'è sicuramente il pericolo del terrorismo, però il volerlo combattere semplicemente con una militarizzazione, perché lo Stato algerino, il Ministero della Difesa ha aumentato nel 2011, dopo la primavera araba, del 40% i suoi effettivi, quindi una militarizzazione per una partita di calcio, leggevo ci sono 30.000 poliziotti schierati, una cosa esagerata, probabilmente non è forse questa la risposta, forse è veramente invece riflettere sul passato attraverso un film, oppure è un altro dato interessante, secondo me positivo, che per esempio il Salone Internazionale del Libro d'Algeri ha avuto una presenza nel 2012 di 1.200.000 visitatori, più di quello di Parigi. Quindi, e quindi la letteratura potrebbe insomma essere un bel antidoto, la cultura in generale. Grazie Caterina Rogero, esperta di Maghreb, per essere stata con noi. Buona serata, buon lavoro. Grazie. E allora al volo riesco a ringraziare Fabio Cantadori in regia, Benedetta Acri, Laura Fagin in redazione. Vi do l'appuntamento per sabato prossimo 19:15, anche lì Nessun Luogo Sarà Lontano.